Per capire quando fare la deviazione, dovete ragionare sul minimo comune multiplo tra i passi che distanziano le radici e quelli che distanziano i tronchi, quindi tra 3 e 4.